analizzato tutti gli aspetti di sviluppo del passante, la propria sostenibilità durante la realizzazione, l'impatto in termini economici e sociali dell'intervento, e ci ha posizionato al massimo livello mai raggiunto da nessun progetto infrastrutturale in Europa, quindi a livello platino. Questo perché insieme con il Ministero e con gli enti locali abbiamo studiato un progetto che fosse sostenibile. Vi do solo qualche numero: alla fine della realizzazione del progetto andremo a risparmiare più di 4 milioni e mezzo di ore degli utenti che attraversano questo nodo, sia a livello nazionale, quindi collegamento nord-sud, est-ovest del paese, e invece di accesso al sistema cittadino. I progetti di sviluppo, dalla piantumazione al numero di ettari a verde, 140 ettari a verde, con parchi che verranno realizzati, riqualifiche ad esempio della galleria San Donino, 20 chilometri di piste ciclabili, già 2,3 megawatt di pannelli fotovoltaici previsti, con una possibilità di prevedere oltre 50 megawatt di ulteriori pannelli fotovoltaici, sono l'esempio, o sono alcuni numeri che spiegano del perché siamo stati eletti come progetto Platinum a livello europeo. Nei mesi scorsi voi avevate commissionato anche uno studio al CNR su alcune modifiche future al progetto, in particolare gallerie filtranti, sistemi di filtraggio dell'aria. CNR aveva espresso dei dubbi, si parla di una fase 2, verranno realizzati questi interventi, sapete già quando? Allora, è proprio corretto il ragionamento, apriremo una fase 2 in modo tale da andare a analizzare quelli che possono essere i progetti di miglioramento come quelli da lei indicati, e vedere l'efficacia di questi progetti. Una volta che noi misureremo l'efficacia, certamente faranno parte di questo progetto. Ma ci sono già delle tempistiche per poi realizzarli in futuro? Beh, la fase 2 prevede che presenteremo il protocollo ad aprile, poi apriremo una fase sperimentale, e poi dalla fase sperimentale, in funzione degli esiti, valuteremo i tempi di implementazione. Per progetti così complessi, il loro successo parte anche dalla capacità di dialogo con i cittadini, anche i cittadini più negativi nei confronti del progetto. Riteniamo che il dialogo, e su questo anche con il Comune di Bologna siamo attenti, sia una delle componenti fondamentali, sia durante la realizzazione, sia poi una volta realizzata l'opera, per effettivamente verificare se i benefici dichiarati sono effettivamente raggiunti con gli obiettivi che ci siamo dati.